Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato Ivano Fossati con La guerra dell'acqua e finalmente, dopo aver accordato strumenti, tastiere, chitarre e anche una mini batteria, possiamo dare il benvenuto intanto a Maurizio Calzavar dall'altra parte del vetro, che è pronto per l'intervista concertino di questa sera. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. E diamo anche un buona serata, un ben arrivato a Igor e alla sua band. Buonasera Igor. Buonasera Flavio, ciao. Buonasera Maurizio, buonasera agli ascoltatori. Benissimo, allora ciao, ciao a tutti. Ci siamo? Ci siete, benissimo. Allora si può cominciare, come avrete capito già dalle prime battute, sarà una serata molto intensa e con un gruppo del tutto, oserei dire, particolare. Poi capiremo anche il perché, sì, a partire dal chitarrista. Lui soprattutto è particolare. Ah, lui è molto, molto particolare, esatto, a quanto pare. Ecco, Alex Carnevali, sì. Parla nel microfono, Alex. Sì, parla col microfono, sì. Vicino al microfono. Benissimo. Allora ricordiamo che è possibile anche vedere questo concertino, quindi confrontarci anche di viso con i personaggi di questa sera. Abbiamo il diretta rockwave.altervista.org, questo indirizzo da proporvi proprio per vedere con le nostre webcam quello che succede nei nostri studi. Allora, partiamo da Igor e da quello che è il suo nuovo lavoro, che si intitola appunto Alter Igor, una specie di titolo freudiano, se vogliamo dirlo. Sì, diciamo demeliano, perché sì, il libro che ha un po' ispirato questo album è il bestseller di Anthony De Mello, che si chiama Messaggio per un'aquila che si crede un pollo, un bestseller eccezionale. Di De Mello mi piacciono queste caratteristiche, cioè riesce a parlare di cose anche un po' impegnative e profonde, ma sempre con una certa ironia e sdrammatizzando. E sono caratteristiche che cerco di mettere anche nella mia musica, quindi di parlare di cose comunque di un certo spessore, di un certo profilo, però sempre ironizzando, sdrammatizzando, senza prendersi troppo sul serio. Quindi da qui Alter Igor, il discorso sarebbe lungo. Diciamo che lui tendenzialmente dice: dare i consigli agli altri siamo sempre bravi, mentre quando si tratta di parlare di noi stessi si fa sempre un po' fatica, no? Quindi è un po' l'alter ego che esce da noi, ci osserva dall'esterno e cerca di comprendere delle cose di noi che di solito non comprendiamo. Alter ego, da buon cantautore, è diventato Alter Igor. Quindi Alter Igor è un album dove io faccio un dialogo col mio alter ego e lui mi guarda, mi dà degli input e poi scrivo, e poi grazie a questi straordinari e bellissimi musicisti facciamo l'album. Benissimo, sempre parlando di Anthony De Mello, ricordiamo che questo grande scrittore che ha scritto diversi libri, tutti che fanno assolutamente pensare, ma anche divertenti di loro base, e poi una frase importante tra tutte, citata sempre da Anthony De Mello, era proprio: la vita è quella cosa che ci accade mentre siamo impegnati a fare altri progetti. Esattamente, sì. E quindi veramente riflettete, gente, riflettete. Esattamente. Tu hai detto, Igor, questo è l'album che ti ha completamente soddisfatto al 100%. Sì, io come sai ho fatto precedentemente, sì, altri tre album, dove però un po' per la fretta, un po' per l'inesperienza, un po' per l'immaturità artistica e anche umana, non ho fatto delle produzioni che mi rispecchiassero, diciamo, in toto. Secondo me questo è il presupposto di base. L'artista, cioè, deve dire delle cose che gli calzano perfettamente, che sente perfettamente, che gli vengono da dentro, perché così è credibile, così è coerente con le cose che dice, e questo la gente poi lo percepisce ai concerti, alle interviste, ovunque. Quindi quando fai delle cose di cui non sei molto convinto, che non ti rappresentano al 100%, senti sempre una sorta di scissione fra te e quello che dici e quello che vuoi che arrivi alla gente. In questo album io dico sempre, sono riuscito ad arrivare alle persone parlando di me, quindi ho fatto un percorso un po' strano. Cioè, una volta cercavo di arrivare alle persone parlando di loro e ci sono riuscito poco. Oggi, parlando di me, paradossalmente sono riuscito ad arrivare più alle persone, perché più persone si riconoscono nelle storie, insomma, che racconto, che poi sono spaccati di vita quotidiana. Ecco. 18 anni di gavetta, tanti concerti dal vivo, tante esibizioni, e finalmente sei approdato una tua etichetta, la Samigo Records. Sì, sì, sì. Beh, è importante questo, fondamentale. Sì, un po' stufo di rimbalzare dalle cattedre e le scrivanie di Milano e Roma, ho detto vabbè, sai, basta, cosa c'è? Ci facciamo il nostro bell'album da soli, autoprodotto, anche se poi insomma è un'autoproduzione, ma diciamo che se uno poi compra il disco dove c'è un booklet a colori di 24 pagine e il sito, insomma, il livello, insomma, dell'audio, insomma, tutto quello che presentiamo insomma, da mainstream, da major in realtà, c'è poco di indipendente. È pensato da indipendente, ma in realtà è un prodotto assolutamente da mainstream. Non perché lo dico io, lo dicono gli altri, sia ben chiaro, io non mi permetterei mai di fare... Certo, sto Dennis sfogliando... No? No, è sveglio, è sveglio. Assolutamente sveglio. So che non è acqua, in realtà è grappa. Quella veneta, assolutamente. Perché è fantastica, poi lo sapete che sono mezzo veneto, Nogarotto, faccio di cognome. Nogarotto, sì, giusto, certo. Mio padre di Torre di Mosto, lo dico con orgoglio. Sì, Torre di Mosto che dalle parti, dopo Tessera, per andare su verso... Provincia di Venezia, comunque, Caorle, San Donà di Piave, quelle zone là. E ci stanno ascoltando anche da quelle parti. Vi saluto caramente perché sono molto legato al Veneto. Ovviamente quando vado nelle Marche dico che sono molto legato alle Marche, certo. È normale, certo, sì. Vabbè, certo, allora noi siamo molto legati al tuo disco, Igor, in questa serata, un bootleg che stavo sfogliando e vedo proprio in principio che c'è una copertina coloratissima e in molti che hanno, diciamo, criticato sempre in maniera molto positiva il tuo disco dicono che ti rifai un po' all'Arcimboldo, quel famoso quadro tutto pieno tra frutta e verdura. Invece la tua copertina parla di tutta la strumentazione musicale, quello che serve per fare della buona musica. Sì, sono vere entrambe le cose. Allora, l'ispirazione è proprio dell'Arcimboldo, che è questo pittore italiano del 600 milanese che faceva questi ritratti burleschi, no? Questi visi composti da fiori, frutta e libri. E, un po' come per De Mello, anche di lui fin da piccolo sono apprezzato queste cose qua. L'originalità, intanto, l'immediatezza, perché questi volti sono fatti di oggetti che riconoscono tutti, i fiori, la frutta, insomma, e l'ironia. Quindi anche questo è una cosa che mi ha colpito molto, che sento nella mia musica. Ho ripreso questo concetto modernizzandolo, quindi c'è un volto arcimboldesco nella copertina di Alter Igor, però fatto di strumenti musicali, quindi proprio un composto di strumenti musicali che, guarda, rappresentano un po' le varie sfumature dell'album, sì, simbolicamente, perché come voi avete sentito ascoltando sono pezzi molto diversi uno dall'altro, un pezzo uguale all'altro, e non riesco a farlo. Quindi l'arpa delle orecchie magari c'entra poco con la chitarra elettrica, difficilmente potrebbero suonare nella stessa band, sì, però poi alla fine tutti questi colori e queste sfumature vanno a comporre un volto unico, che è un po' il progetto mio unico, appunto Alter Igor. Scavare in te praticamente. Sì, guarda, ti dicevo prima, osservandomi un po' dall'esterno ho cercato di capire delle cose di me, e senza freni inibitori, come dice la canzone Le dita nel naso, che è proprio, certo, questa metafora che vuole significare non abbiamo paura, insomma, di raccontarci di noi stessi, dei nostri limiti, delle nostre paure, e ho raccontato delle cose di me anche molto intime, che secondo me è quello che deve fare anche un po' il cantautore, no? Parlare comunque di sé. Poi vabbè, ci sono quelli più socialmente impegnati, ma non è il nostro caso, insomma. Vabbè, allora perché faceva ridere questa cosa? No, niente, così, cioè, perché no, cioè, hanno visto tutti, no? Sì, probabilmente l'hai detto in una maniera abbastanza, okay, che ha reso felice i presenti, ma anche sicuramente il pubblico che ci ascolta da casa. No, il microfono. Sì, ma non dico niente, no? Vabbè, poi così sempre. E c'è un filo conduttore, sì, la musica pop, secondo me, Igor. La musica pop, il pop piccola, con la P maiuscola in questo caso, che dà il filo conduttore a tutti i tuoi pezzi, a mio parere, la vedo così. Tu dici perché hanno una certa melodia? Perché ha una certa melodia, la ricerca della melodia, che è importante. Sì, mi fa piacere, non è una ricerca, nel senso che mi viene così da scrivere cose che sono abbastanza orecchiabili e melodiche, pur insomma magari in testi non sempre... così, scontati e immediati. Esatto, un testo di un certo peso, però dal punto di vista musicale giochi sulla melodia, giustamente. Ma a me sembra una cosa positiva, voi cosa dite? Sì. Ok, la band ha salito, voi? Sì, no, confermo, anzi, okay, anzi. Io positivo. Come avrete capito, carissimi ascoltatori, siamo in rigorosa diretta, abbiamo Igor dall'altra parte del vetro assieme a Maurizio con la sua band per presentarci questo suo lavoro che si intitola appunto Alter Igor. Allora noi potremmo anche cominciare con un pezzo, possiamo sceglierlo dal disco oppure facciamo... No, facciamo prima dal disco. Facciamo prima dal disco, tanto per capire di che musica stiamo parlando assieme ad Igor e alla sua band. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Thank you. Stamattina io mi guardo negli occhi, perché mi piace osservarmi per quello che sono, sono io. Certo non è facile dire a tutti che una volta ho rubato, qualche volta ho bestemmiato, molto spesso ho mentito. Mi vergogno ancora un po', ma non ne potevo più di tenere questa maschera su, perché in fondo non è mica un tabù. Io mi metto le dita nel naso, non ho più paura di farmi vedere per quello che sono. Io mi metto le dita nel naso e controllo meglio le scimmie o ladrici che ho nel cervello. È semplice dire anche che ho paura del dolore, ho bisogno anch'io di amare, ma non voglio più soffrire. Mi vergogno sempre un po', ma non ce la faccio più. Io mi metto le dita nel naso, non ho più paura di farmi vedere per quello che sono. Io mi metto le dita nel naso e sciolgo il groviglio di seghe mentali che ho nel cervello. Sei lontana e non penso a Barcellona, ma non è la mano. Dopo notti a domandarti come mai puoi svegliarti, con le mani nel sacco puoi, o puoi lavartene le mani se vuoi. Io mi metto le dita nel naso, non ho più paura di farmi vedere per quello che sono. Scimmie o ladrici che ho nel cervello. Stamattina io mi guardo negli occhi e mi piace. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora all'interno di Blu Radio Sera. Buona serata a tutti, ancora da Flavio Bilato, Maurizio Calzavara. Abbiamo appena ascoltato una canzone tratta dall'ultimo album di Igor, Alter Igor. Una canzone con un grande profilo educativo, oserei dire, e anche con definirei anche la canzone della libertà di scelta. Pedagogico, sì. Aggiungerei io. Pedagogico, senz'altro. Allora, com'è nata questa prima traccia così divertente, ma nello stesso tempo un po' libertaria, se vogliamo dire? Ma come dicevo prima, le dita nel naso è un po' lo step iniziale di questo viaggio all'interno un po' della mia interiorità, no? Dove poi ho parlato molto di me. Simbolicamente, appunto, ho voluto dire liberiamoci un po' delle proprie nostre barriere mentali, delle proprie inibizioni, perché solo in quella maniera poi riusciamo a esprimerci veramente per quelli che siamo. E da un punto di vista proprio della nascita del pezzo, banalmente, a un semaforo. Sì, mi si è accostata una macchina di un signore sulla sessantina, più o meno, che si stava mettendo dita nel naso. Ha visto che lo guardavo, ma non è che lo guardassi, mi sono girato casualmente, si è vergognato tremendamente e ha smesso di fare questa cosa. Io ho detto, ma pensa te, se una persona di 60 anni, cioè, si deve vergognare di fare una cosa che facciamo tutti, chi lo dice, chi no, ma tanto lo fanno tutti, ingenua, innocua, che non fa male a nessuno, però per una sorta di ipocrisia, di perbenismo, di regole di bon ton che impone la società, poi uno si vergogna a farlo davanti agli altri. Poi quindi se uno è da solo nell'abitacolo della macchina, sì, appunto, forse so, voglio dire, stai facendo un aperitivo, fa schifo, però voglio dire, in macchina, tranquillo, il microfono. Perché? Mettiti davanti al microfono. Sono davantissimo. Guarda. Se lui c'ha la voce tonante, quindi. Ah, quindi non si fa durante l'aperitivo? No, durante l'aperitivo no, non potevi penso. Dirmelo prima, però. Loro sono anche comici, anche un trio comico, lo proponiamo. Sì, anzi, a proposito, Igor, vuoi presentare i componenti del tuo gruppo comico? Assolutamente no. Dire assolutamente sì. Ciao, un impegno. Allora, Alessandro Carnevali. Perfetto. Alla chitarra, per chi lo vede in webcam, non so in questo momento chi stanno inquadrando, ma è lui. Giuseppe Tortorelli, grande batterista, percussionista. E il bellissimo Dennis Borgatti, pianoforte, tastiere, cori, un elemento veramente ciao a tutti. Insostituibile. E a tutte. No, ciao a tutti, meglio solo a tutti. Ah, ok. Forse lo sta ascoltando la fidanzata, vabbè, comunque allora. Queste sono delle persone intanto eccezionali e come dico, ho detto altre volte, insomma, i gruppi si formano a tavola prima che sul palco. È vero. Perché ci deve essere il feeling musicale, l'empatia per andare d'accordo intanto come forma mentis e poi ovviamente ci vuole la tecnica, l'esperienza, la disponibilità, tutto il sacrificio, però la mangiata a tavola, la bevuta a tavola sono proprio sintomatiche, ecco. Certo, questo pezzo io ho scritto nella recensione, nella presentazione dell'album, secondo noi, aveva un tipico, piccolo, leggero ma importante tocco di blues iniziale. Io l'ho sentito così. Perché secondo voi c'aveva questo tocco di blues e poi come si è sviluppato musicalmente parlando? Ma è un riff nato in studio, carino, accattivante, dal sapore un po' diciamo americano. Sì, americano. Tra virgolette sembra. Sì, mi ricordo un pezzo di mi sembra di Madonna, che ha un inizio con la chitarra acustica un po' così. Ah, sì. Non ci sono altre motivazioni se non una questione estetica, una questione ritmica. Il fatto che abbia questo vago senso blues, così. Non è che io sia un grande fan del blues lo pratichi, ecco, si vede che faccio del pop, quindi non posso spacciarmi per un bluesman, voglio dire, quindi non voglio bestemmiare per quelli che lo fanno bene, quindi uno di quei generi musicali dove ci sono dei musicisti veramente, insomma, con i contro. Però ecco, è uscito fuori così, non ti racconto cose particolari, ecco, è stata una questione estetica e è venuto fuori, insomma. Buona la prima, Igor? Ma per quel giro lì sì, col chitarrista se è nata sì questo giro blues, è un po' blues così, l'abbiamo messo. Possiamo andare avanti? Che sì, no, c'è altre cose. L'ultima cosa che si vuol dire sempre riguardo le dita nel naso è che il CD che è nato... il CD di Alter Igor ha anche un video che appunto parla delle dita nel naso. Abbiamo saputo un po' di particolarità fuori a microfoni spenti mentre ascoltavamo la canzone. Davvero divertenti, anzi merita proprio di essere preso proprio il disco per vedere anche il video, che è assolutamente, assolutamente carino. Sono io questa maschera di ippopotamo che giro per questa Parigi desolata. Lì l'ambientazione è ispirata a Io sono leggenda di Will Smith. Dove c'è appunto lui che esce, no? Trova tutto desolato, tutti fuggiti e quant'altro. Esatto, io esco con questa maschera da ippopotamo e sono un rappresentante di Cotton Fioc sostanzialmente, perché l'ipocrisia è espressa a valori talmente alti che anche solo per mettersi nel naso, diciamo, l'occidentalizzazione, il commercio arriva a proporti un Cotton Fioc per... anche togliersi, insomma, il coso dal naso, quindi certo. Ipocrisia a livelli estremi, in questo caso ipocrisia, perché ipocrisia è grande. Applauso. Applauso. Bravo, grazie. Allora, visto parole, che li adoriamo in pieno clima goliardico, allora Igor, ancora una volta benvenuto alle nostre frequenze. Con la band cosa ci fai ascoltare? Qualcosa o tornati a casa senza? Allora, abbiamo un sacco di pezzi, non vediamo l'ora di farveli sentire. Bene, allora da cosa si comincia, Igor? Facciamo un pezzo che si chiama Si può fare. Mm-hmm. Noi, insomma, come ho detto prima, abbiamo nell'album alcuni brani anche introspettivi, però ci piace dare un messaggio positivo, quindi abbiamo alcuni pezzi come Si può fare, Va tutto bene, il TG delle buone notizie, che insomma sentiremo dopo, dove cerchiamo di dare anche un messaggio positivo, perché bisogna sempre essere ottimisti, positivi e sdrammatizzare. Perfetto, allora Igor con la sua band da Alter Igor questa bella canzone, mentre voi carissimi ascoltatori siete qui all'interno di Blu Radio Sera, l'emittente Blu Radio Veneto. Giornata così, vado a letto stanco morto, faccio domande a cui da tempo non rispondo, guardo la TV, i miei occhi fissano lo schermo, ma sono lontani in un mondo senza tempo. Domani mattina mi sveglio e spero tutto vada meglio, sì. Si può fare, si può andare dove tutto ha più colore. Se apro gli occhi vedo il sole, sciolgo il ghiaccio con il sale. Se pa pa pa pa pa, se tu stai con me, se capisco che sì, si può fare. Giornata così, non so che pesci pigliare, mi affanno perché navigando in alto mare, deluso sì un po', come un pesce fuor d'acqua, ho l'acqua alla gola e non cavalco l'onda giusta. Domani mattina mi sveglio e non faccio lo stesso sbaglio, no. Si può fare, si può andare dove tutto ha più colore. Se alzo gli occhi vedo il sole, sciolgo il ghiaccio con il sale. Se pa pa pa pa pa, se tu sai con me, se capisco che sì, può fare. Ho già quel che voglio, sì, che voglio, che voglio, voglio, sì, che voglio. Si può fare, si può andare dove tutto ha più colore. Se apro gli occhi vedo il sole, sciolgo il ghiaccio con il sale. Si può fare, si può andare dove tutto ha più colore. Se alzo gli occhi vedo il sole, sciolgo il ghiaccio con il sale, si può fare. Ed eccoci qua, si può fare con Igor e la sua band qui all'interno di Blu Radio Sera, la programmazione musicale della sera in questa serata, ampio spazio live. Ancora buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, un finale da jam session, che bello, è bello. Visto? Un po' di feeling, di grinta, di yeah, yeah, va bene, yeah, così. Yeah. Adesso devo chiederti, yes, una cosa, mi racconti di quell'episodio che ti ha visto protagonista a Sanremo vestito da Superman. Allora, vabbè, diciamo che nelle varie forme promozionali che si sono susseguite in questi album, in questi anni, il tuo percorso, sì, in questo iter, abbiamo studiato anche questa cosa qua. Cioè nel 2003, quando uscì l'album Ho bisogno di Superman, andammo al Festival di Sanremo, e io e il mio, diciamo, compagno musicale, eravamo un duo, si chiamavamo Due Così, e quattro splendide ragazze selezionate da noi proprio a un casting, e prese sia per la bellezza sia per la capacità, diciamo, di relazionarsi con il pubblico, e abbiamo girato per Sanremo per una settimana tutti e sei vestiti da Superman. Bellissimo. Ovviamente insomma, c'è stata la curiosità, ci sono stati su Station Notizia, Blob, Rai, insomma, interviste a destra manca, quindi fu un'iniziativa, diciamo, un po' goliardica, ma che ebbe un notevole riscontro, ecco. L'ho detto, siamo un po' folli, lucidamente folli, però ci piace anche andare un po' oltre, no, le forme normali di promozione e, insomma, inventarci delle cose, la creatività, diciamo, che non manca. Bisogna andare oltre le forme di promozione, Igor, cosa dici? Beh, mi sembra di averlo abbastanza dimostrato. Possiamo far di meglio, ecco. Diciamo che farà il vestito da Superman, la maschera dell'ippopotamo, insomma, son ben messo. Poi si può sempre far di meglio, ecco. Ci saranno altre prove allora, praticamente. Ah, guarda, fin quando non ci buttano giù per terra, non andiamo avanti sempre di più e ci divertiamo sempre di più, abbiamo sempre più riscontro, quindi, insomma, meglio di così, insomma, non si può. Il live è il modo per divertirsi musicalmente parlando, in senso positivo. Vorrei che a questa domanda rispondesse loro. Dennis Borgatti. Adesso. Vai, vai, rispondi. Perché qua dentro siamo in 5 più 1 e devo rispondere. Cos'è il live? Il live. Il live. Esatto. Il live ovviamente è l'aspetto che ti mette più a contatto con il pubblico, con la realtà, con il muro. Esatto. Allungati un altro po' sul microfono. Allungo il microfono. Ecco qua, sì. Grazie. Quello che ti fa scontrare con il muro di gente, con i riscontri positivi e negativi che siano, con tutto ciò che fa parte della vera parte emozionale di fare il musicista, sostanzialmente. Fare un disco bello, interessante, tutto quanto, ma si è chiuso in uno stanzino, ovviamente, si registra 28 ore al giorno su 24, non si mangia, non si dorme, a volte non si fa anche altro. E l'aspetto ovviamente più ludico è stare davanti a persone che ti ascoltano, più o meno compiaciute, ma comunque sono lì. Certo. Sono lì per te in ogni modo, che tu possa piacere o non piacere, loro sono lì. Devi dare il massimo e hai una possibilità sola, e questa è la cosa bella, che un disco lo puoi rifare, risuonare, rivedere, rifare. Lì invece hai una possibilità, dopodiché saluti come è andata e andata, vedi, dai il massimo e dai tutto quello che puoi. Ti avvicini. Bravo! Bravo! Bravo, sante parole, bravo! Sempre stand innovation all'interno. Cerca gruppo. E ti avvicini, vi avvicinate notevolmente a come il disco, o allargate l'orizzonte, cambiate totalmente discorsi? Vorrei che a questa domanda rispondesse Alex Carnerà. Anch'io, guarda, sono d'accordo. Vai. Ma no, è che... Allora, in questa situazione è stato tutto un po' stravolto, perché sul disco ovviamente è tutto in elettrico, ci sono più chitarre, più cose, certo, sovraincise, certo, eccetera, quindi facendo una cosa più in acustico abbiamo dovuto un po' riguardare a tutti gli arrangiamenti, eccetera, però grazie a questo appunto abbiamo avuto la possibilità anche di reinventarci praticamente pezzo per pezzo tutto il sound, per vedere cosa veniva meglio e scegliere un po' le parti da fare, per avere una struttura un po' in più, per avere anche un po' di affiatamento tra di noi, facendo una versione che era del tutto nuova, insomma. Ma anche il batterista non ha detto neppure una parola. Batterista, l'applauso, l'applauso. Allora, farei una domanda io a Giuseppe Tortorelli. Accovacciati a uovo. Com'è stata l'esperienza di questa giornata in questo tour live nelle radio venete? Raccontaci. Ma direi divertentissimo. Un'esperienza diversa, perché hai un pubblico ma non lo vedi, che già è... Esatto, che a volte è meglio. Per il pubblico o per noi? Una serie di cose. Ma, okay. Ma ti vedono, adesso ti vedono, sì, con le telecamere. Ti vedono con le telecamere e ti vedono. Ti stanno anche vedendo. Certamente. Sì, sì, adesso ci stanno. No. No, molto bello, sì. Molto bello. È di poche parole, ma di sostanza, poche di parole, sostanza. Ma di sostanza. Sì, sì, assolutamente. Che poi è stato è stato proprio Tortorelli a dire al finale del disco, a farti una dedica, a dire dal cassone non si torna indietro. Sì, dai, sul booklet questo. Diciamo che io penso che sia, tutti dovrebbero farlo, ma abbiamo dato spazio ai musicisti che hanno suonato in maniera un po' più ampia, no, rispetto al solito nomignolo, quindi c'è una foto dei principali musicisti. E poi ho voluto chiedere loro se volevano dare una massima, e quindi ognuno ha dato una sua massima. Giuseppe è riuscito a dire dal cassone non si torna indietro, che sembra lì per lì una cosa, ma però c'è da ragionarci da un punto di vista del musicista. È molto profonda, poi dipende anche dal cassone. Esatto, sì. Ecco, bene, allora continuiamo a parlare di questo disco, anzi continuiamo a farlo suonare questo, sì, disco, esatto, perché abbiamo un altro pezzo da far ascoltare, ce ne sono ben 13 pezzi all'interno di questo CD, più appunto, come ricordato prima, anche un video delle dita nel naso curato da Stefano Bertelli. Allora, cosa ci ascoltiamo? La traccia numero 4? Sì, ok, la traccia numero 4. Benissimo, allora da Blu Radio Sera la traccia numero 4 si intitola Vado dal dottore, davvero divertentissima. Blu Radio Veneto. Quando sto male vado dal dottore, quando sto bene vado dal dottore, mi piace sentirmi dire che va tutto bene, mi piace sentirmi dire esiste un problema, ho finito le supposte, vado dal dottore, ho mangiato le aragoste, vado dal dottore, mi si è rotta un'unghia, vado dal dottore, mi ha morso un brontosauro, vado dal dottore. Come un brontosauro? Mi aiuti dottore, ho un terribile cerchio alla testa, mi dica dottore quanto tempo mi resta, mi aiuti dottore, ho un terribile cerchio alla testa, mi dica dottore quanto tempo mi resta. Quando mi svegli faccio colazione, quando lo faccio senza protezione, il giorno dopo corro dal dottore, lui mi toglie dalla testa paranoie. Mi aiuti dottore, ho un terribile cerchio alla testa, mi dica dottore quanto tempo mi resta, mi aiuti dottore, ho un terribile cerchio alla testa, mi dica dottore quanto tempo mi resta, ho un terribile cerchio alla testa, terribile cerchio alla testa, terribile cerchio alla testa, terribile cerchio alla testa, terribile cerchio alla testa, terribile cerchio alla testa, per digerire vado dal dottore, non ho dormito, vado dal dottore, lei mi ha tradito, con il mio dottore mi son pentito. Ieri mia madre è andata dal dottore, con la salute non si può scherzare, una ricetta tanto per gradire, in certi casi meglio prevenire, prevenire. Dottore, ho un terribile cerchio alla testa, mi dica dottore quanto tempo mi resta, mi aiuti dottore, ho un terribile cerchio alla testa, mi dica dottore quanto tempo mi resta, mi aiuti dottore, ho un terribile cerchio alla testa, mi dica dottore quanto tempo mi resta, mi aiuti dottore, ho un terribile cerchio alla testa, mi dica dottore quanto tempo mi resta. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato Igor cantare Ho un terribile cerchio alla testa, che non stia per diventare santo, non ci sia odore di santità in tutto questo. Ancora buona serata a tutti, siamo con Igor per la presentazione del suo disco, si intitola Alter Igor, la canzone che ci siamo ascoltati, davvero divertente, Vado dal dottore. È nata subito anche sempre di più in battuta anche questa musicalmente, Igor, oppure no? Questo è un pezzo che ha più di 10 anni. È nato un po' intanto in fila dal dottore, vedendo che arrivando c'erano 15 persone davanti e altre 15 dietro, che sì, quelle dietro un problema, esatto. E per lo più erano persone che non avevano grandissimi malanni, però ormai si va dal dottore veramente, sì, per qualunque cosa. Certo. E poi io in primis sono abbastanza ipocondriaco, quindi da che pulpito, e quindi insomma ho unito un po' questa mania di andare dal dottore per una qualunque sciocchezza al fatto che io comunque non sia proprio uno che evita di andarci, e ho parlato di questa mia ipocondria e in generale di un'ipocondria che vedo abbastanza diffusa, ecco. Questa è la... l'input, l'idea praticamente. Sì, poi l'arrangiamento del pezzo, questo è nato praticamente in un po' home recording, diciamo, ce l'ho arrangiato un po' io ai tempi con i drum loop, le cose, e quindi era un provino che però ho sempre tenuto nel cassetto gelosamente, perché era un pezzo che mi piaceva molto. E poi insomma in questo album ho trovato la giusta collocazione, secondo me, perché rientra proprio nel concetto Alter Igor. Poi insieme ad altri due brani che si chiamano Paura del buio e Sono depresso, c'è proprio una triade di di analisi delle mie paure e fobie maggiori, e nonché problematiche psicofisiche, e quindi sempre insomma drammatizzando, perché alla fine questa è una canzone abbastanza divertente, sì, ironica, certo, pur trattando un tema insomma reale. E quindi insomma ho fatto questa trilogia di canzoni che sono la traccia 4, 5, 6 di Alter Igor, e insomma e ho parlato di questa cosa, e mi piace molto questo arrangiamento perché unisce una sorta di trip hop al rock nel ritornello, i cori, botte risposta tra voce in principale, cori, poi parte una sorta di pop dance col cassone, e dal cassone confermo che non si torna indietro, e quindi è un misto, diciamo, di suoni e arrangiamenti che insomma vanno tutti in una sola canzone, che insomma mi piace molto la commistione di tutto questo pezzo. Sì, ecco. Ta recitata e cantata, una commistione di tutta. Sì, beh, io mi ritengo un ottimo cantautore, un discreto cantante, ecco, non ho la presunzione di cantare, ecco, mi piace cantare in maniera un po' recitativa, ma soprattutto mi piace riuscire a cantare le mie cose, e spesso sbrodolo un po' nelle melodie, recito, parlo, e questa è una cosa che anche per chi recensisce queste cose qui non è sempre immediata, quindi sì, magari uno dice ma qui cos'è, è stonato, è sbagliato, sì, va bene, se uno pensa così ci sta, però se poi entra un pochettino di più, diciamo, nel concept, ci sono proprio parti in cui volutamente c'è una parte un po' più scanzonata, un po' calante. Poi ripeto, non sono la precisione in persona, però ecco, alcune cose sono fatte apposta, soprattutto nel disco, un po' recitative, come dici tu, un po' teatrali, mi piace anche essere un po' teatrale, ecco. Che poi Maurizio, anche Lucio Battisti non era considerato proprio così intonatissimo, ecco. Però poi con la B, giustamente, poi sveleremo anche il gioco delle B nei comunque vari, sì, personaggi. Ti ringrazio per il parallelismo, direi che è assolutamente corretto. Beh, assolutamente vero. Vabbè, allora Igor, visto che sei con la band, un'altra canzoncina. A voglia. Bene. Allora adesso vi presentiamo una canzone che a noi piace da morire, e secondo noi è insomma di quelle che viene meglio in acustico, se non la migliore. È un po' la ballad del disco. E una canzone, la balla, scusa? Un po' con la D finale. Sì, con la D. La balla non è male, però la balla del disco potrebbe essere anche un titolo di un futuro singolo. E insomma, ve la facciamo veramente col cuore in mano, perché è un pezzo che ci prende molto, molto bene. Ecco. Si chiama Una cosa sola, e ve la regaliamo questa sera qui su Blu Radio Veneto. Buon ascolto. Ricordo per il numero di SMS 346-2320-033. Ripeto, 346-2320-033. Aspettiamo i vostri messaggi, perché sono molto importanti. Ci fa piacere poterci confrontare con voi e sentire i vostri pareri, positivi o negativi che siano, ma la cosa è che non siate indifferenti, che ci diate un feedback. Io e Maurizio possiamo andare a casa, ha presentato tutto lui, quindi le prossime ore assieme a Igor e alla sua band. Of voglia di fare l'amore, mi avvicino sornione a te, quel tanto da poter capire se ne hai voglia come me. Una luce si accende negli occhi e cambiano odore e sapore, ti bacio sul collo e ti sento sempre più forte respirare. Ora la mia mano scende piano e accarezza lievemente il tuo seno. Poi via le magliette del petto contro petto, la tua pelle comincia a tremare. Ti tengo stretta, insieme possiamo fuggire via. Ora una cosa sola e tutto il nostro mondo è qui. Ma ti sento mia, mi senti tuo, sì. Chiudo piano gli occhi mentre i nostri corpi rotolano via. Non c'è più io, non c'è più tu. Ti accendi una sigaretta, poi ti giri, mi guardi, sorridi. Hai un'espressione soddisfatta come quando vince al trivial e si parla di progetti, della casa e dei viaggi, dei regali di Natale e poi delle vacanze al mare. Perché stiamo così bene solo insieme. Non è più nulla, ah, proprio nulla, ho un confine, ora una cosa sola è tutto ciò che serve qui. Ti sento mia, mi senti tuo così. Apro piano gli occhi e sono ancora sveglio, è un sogno che non se ne va. Non c'è più io, non c'è più tu. Sola e tutto il nostro mondo è qui. Ma ti sento mia, mi senti tuo, è un'alchimia, una magia. Non c'è più io, non c'è più tu. Ed eccoci qua, ancora ad ascoltare la musica di Igor, arrivato con la sua band direttamente da Asti e qua per un piccolo tour, no, non direttamente da Asti. Adesso però vivo a Bologna. Ah, vivi a Bologna. Moshi. Ma sono di Bologna, allora. Okay. Sono da Bologna ormai da 5 anni. Quindi sento l'accento. 5 anni, no, faccio schifo, però. Ci provo. Sochmel, Dumaron. mentre invece Dennis Borgatti e l'esimio Alex Carnevali sono bolognesi. Giuseppe Tortorelli, mezzo parmense o parmigiano, scusami, parmigiano. Mi confondo sempre, parmigiano. Perché centro città, invece i parmensi sono quelli che stanno in provincia. Bravissimo. Perfetto. Ah, e mezzo lucano. E io sono mezzo piemontese, mezzo veneto. Siamo trovati tutti a Bologna, insomma. Beh, è un buon punto di riferimento. Poi Bologna, poi anche per il cantautorato, insomma. Beh, non per nulla, insomma, penso il 60% degli artisti italiani sono emiliano-romagnoli, insomma. Quindi ho una mia teoria, la posso esplicare su queste, sì, frequenze. Raul Casadei compreso, comunque, no? Esatto, sì, sì, sì. Della, del tipo di musica. Con la C però, Casadei, non è, esatto, con la B però. Basadei. Vi do questa perla psicopedagogico, la volete? Allora, secondo me, sì, la personalità delle persone è influenzata dal luogo geografico in cui risiedono. Mi spiego. In Piemonte, dove risiedevo, che è un po' in mezzo alle colline, un po' in mezzo ai monti, le persone sono un pochettino chiuse. Non che non abbiano delle cose da dire, ma le tengono un pochettino per sé e hanno poca propensione a esternare le proprie sensazioni. E quindi ho fatto una fatica immensa all'inizio a potermi esprimere con la musica, perché vedevo intorno persone un po' chiuse, un po' poco, ripeto, aperte a poter esprimere le sensazioni. Dove in Emilia Romagna c'è, diciamo, più pianura in primis, e poi il mare, c'è una visione delle cose molto più ampia, non ci sono limiti, quindi la mente può andare al di là delle cose senza un confine, quindi vagare proprio anche all'infinito e farsi i suoi viaggi, ritornare con... E questo secondo me influenza, ecco, molto anche la capacità, non tanto l'avere delle cose da dire, perché c'è il piemontese come il trentino, come il palermitano, però la capacità di esprimerle, secondo me, a livello geografico c'è una maggiore propensione nelle zone di mare e di pianura. Tra la via Emilia West. Esatto. Puccini Docet, chiaramente. Parte sempre. Ho detto una canzone stata? No, no. Oh, beh, mi è piaciuto. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Grande. Allora, Maurizio. Sta andando bene, Dani? Sì, sì, okay. sta andando bene. Anche la teoria della B, però, che mi piaceva. Ma adesso una, sì, cosa per volta, se non è che... Allora, visto che parliamo della B e di tutti gli artisti con la B, Igor escluso, nel senso che tu sei con la I, per cui, anche se ti piacciono tutti quelli con la B, no? Sì, infatti, sì. Allora, Maurizio... Sì, facciamo la domanda, la famosa, sì, domanda, siamo in quattro qua, non sono 5 dischi a testa da scegliere, da portare su un'isola deserta, facciamo 3, facciamo uno sconto. Ecco, 3. Allora, il primo è Alter Igor. Perfetto, quello... Secondo è il White Album dei Beatles. Come mai Beatles? E come mai White Album e non qualche altro? Perché secondo me ci sono le canzoni più gioiose e originali. Mi piace moltissimo, ovviamente, Sgt. Pepper. Ce ne sono tante canzoni che mi piacciono molto. Però White Album, a livello proprio emozionale, mi arriva dentro e mi sorprende. Mentre un po' di meno gli altri, ecco, quindi sicuramente il White Album. E l'apice secondo te della produzione Beatles? Per me assolutamente, sì, sì. Okay. Ma senza dubbi, poi sai, The Gustibus. Sì, certo, The Gustibus. Sono dei batteristi che non possono vedere Ringo Starr, non dicono che non sa suonare. Sarà vero, però, insomma, è... Molto meglio il figlio in questo caso. Ma è quello dei biscotti? Secondo me Alex abbandona a questo punto. No, secondo me io sono poco per la tecnica, molto per la capacità di esprimere delle emozioni, quindi insomma Ringo Starr lo adoro. Poi passiamo al terzo, sì. A 3 album solo, cavolo, ne avevo 50 da dire. Più, no, vabbè, insomma. Metallo o non metallo dei Blue Vertigo? Ah, sì, come mai Morgan e i soci? Blue Vertigo con la B. Mi è piaciuto perché unisce rock, elettronica, pop, melodie, ma anche dissonanze, suoni, sperimentazione, finali lunghissimi musicali che io adoro. Coraggio di metterli nel disco. Certo, erano molto avanti loro musicalmente. Sì, hanno aperto una strada anche loro. E poi lui è un personaggio eclettico, Morgan, straordinario, opinabile, finché si vuole. Però insomma in quell'album mi è piaciuto tantissimo. E aggiungo un album che c'era in quel periodo, che era Senza Vento, dei Timoria. Molto bello, molto bello quello. Che anche, cioè, me lo ascolterei insomma tutti i giorni, la voce di Renga, le idee di Pedrini quando le aveva ancora. E, ma sì sì, si può dire, no no, io cioè, non ho problemi, io adoro Omar Pedrini perché secondo me è un grande artista e ultimamente mi piace di meno, dico semplicemente questo, però per me è un grandissimo, e cioè, lui e Renga hanno fatto una coppia veramente insomma, eccezionale. E passo la parola a bene Alex Carnevali sugli album. Vai. Ma io sono abbastanza semplice, nel senso, niente B, perché cioè, ho una C, il Coldplay, il primo in assoluto. Ah, in assoluto bellissimo. Il primo. Parachute, e poi dopo due dei Pink Floyd, che secondo me, vabbè, Dark Side of the Moon, perché credo che ancora oggi, dopo più di 30 anni, nessuno sia riuscito a riprodurre quei suoni lì che comunque loro hanno tirato fuori più di 30 anni fa. E un altro che secondo me è molto valido ma poco apprezzato, sempre loro, che è The Final Cut. Cioè l'ultimo album di Roger Waters, praticamente. Ah sì, beh, The Final Cut, esatto. È eccezionale. Secondo scritto, me è stato molto sottovalutato, che per me invece è incredibile quel disco lì, e porterei questi tre. Ok, due dei Pink Floyd hai scelto. Sì, e io avrei scelto personalmente Atom Heart Mother. È un po' troppo sweet. No, è un po' troppo psichedelico, un po' troppo strano. Per alla lunga su un'isola deserta, magari mi stanca. Ti stanca. No, comunque condivido The Final Cut, anche se il primo per me è proprio. Vabbè, prima viene Dark Side of the Moon, però sì, subito dopo c'è quello. Final Cut, che è il primo album solista di Roger Waters, anche se è scritto qui Pink Floyd. Sì, esatto, poi, esatto. Praticamente alla fine, esatto. È questo. Anche se i Malini dicono anche The Wall è la stessa cosa, però sì, no, sì. Anche per quello, insomma, sì. Comunque possiamo dire che qui. E penso siano anche parecchio divisi, perché poi Roger Waters lo porta via da solo il The Wall, no? Per sì, cui sì. Infatti non penso ci siano dei problemi anche a livello. Non sono molto però vedi, rimasti però vedi, in discorso, armonia. Il diciamo. Discorso di Roger Waters, senza il marchio Pink Floyd, Roger Waters sì, però... Beh, gente, io ho anche la suoi gente rischi, ama eh. Il marchio Pink Floyd, c'è niente da fare, anche se Roger Waters è grandissimo. La gente ama il marchio Pink Floyd, sì, poco da fare. Sono diversi sia i dischi di Roger Waters da solo, sia quelli di Gilmour da certo, solo, certo. O Gilmour con i Pink Floyd senza Waters, però come artista per me... O quelli con la B fa meno discutere però, cioè... Giuseppe, hai una B? No. Ecco, vai. Ma promettendo che probabilmente domani ti direi qualcosa di diverso come ieri, oggi mi viene in mente Afro Blu di Coltrane, forse. E... Però hai scelto bene. E Miles Davis, My Funny Valentine. Questa qui c'è da raffinate. Qua cominciamo a sorvolare ambienti jazz. Con chi suoniamo? Ciao. E forse Regatta de Blanc, i Police. Dei Police. Ah, assolutamente. Da batterista. È da batterista. Bravo. Il nostro tastierista, vai. Io mi sposto più sugli anni 70. Ok. Temo Close to the Edge degli Yes. È un album epocale, secondo me. Un album epocale. Temo quello. Poi temo anche... disco dei Genesis. Quale? Si intitolò Foxtrot. Ah, Foxtrot. Ah, che bello, bene, che bello. Sì. C'era ancora il primo chitarrista. Sì. E c'era Steve Hackett. Esatto, Steve Hackett. Sì. Lì prendo insieme un po' di cose, nel senso che non posso portare tutta la discografia di Gabriel, per cui prendo quel disco lì e poi non posso. Ultimo disco, credo che su un'isola sia la cosa più strepitosa che una persona possa ascoltare, è El Greco di Van Halen. Come mai hai scelto È il Greco di Vangelis? Perché l'ho ascoltato sull'isola. Ah, perfetto. E quindi è stato sull'isola lui? Non ve lo ricordate? Dennis Borgatti, l'isola dei famosi, Rai 2. Per serate 346-2320-033 ha un cachet veramente onesto. Benissimo, allora. Giustamente, Igor. È giusto. È vero. Sì. L'ho fatto per campare? Sì. L'hai fatto? Ho fatto, sì. Ho fatto tutto. Ho sguattero, ho fatto il DJ, ho fatto il cameriere, ho fatto il mercante ambulante. Bene, ma sono tutte quante. Sono tutti i mestieri che servono. Esatto. Sono tutti i mestieri che servono poi per scrivere le canzoni. Giusto. Ma secondo me sì, fare lavori molto diversi e viaggiare sono veramente due cose che ti permettono di assorbire un sacco di input che poi uno metabolizza e mette nella sua musica, così come magari fare il piano bar, le cover, cantare tante cose diverse. però più cresci, più assorbi emozioni, culture, cibi, paesaggi, e più secondo me hai una ricchezza interiore da poter poi esprimere nei testi, nelle canzoni, nell'emotività quando si canta, insomma. Giusto, giusto. Salutiamo un momento tre fan accanite di questo programma, e anche hanno sentito il tuo disco, Igor. Sono la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, che ci ascoltano stasera. Oltre la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, io le ringrazio molto e mi sa che dedicheremo a loro la prossima canzone. Perfetto. Bene, benissimo. Allora, a mano agli strumenti, ne facciamo un'altra, certo, dal vivo. Certo. Benissimo, allora ancora una volta il brivido di ascoltare Igor e la sua band. Gli studi di Blu Radio Veneto ce li abbiamo ospiti fino alle 22:30 all'interno di Blu Radio Sera. Allora, questo si chiama A te, a me, è il singolo attualmente in programmazione. Poi vabbè, singolo o non singolo, voi giustamente siete una radio che sperimenta, mettete altri pezzi anche se non seguite il singolo, no, che va di moda singolo, in questo momento, e io lo apprezzo tantissimo. Beh, l'album lo mandiamo apposta alle radio, perché così uno sceglie i pezzi che gli piacciono di più. Per le radio un po' più, diciamo, standard e canoniche, è il singolo che sta, insomma, andando in rotazione in questo periodo. E A te, a me, diciamo, esprime molto bene l'alter Igor, perché c'è proprio un dualismo, una storia parallela di due persone in cui molti si riconosceranno in l'una nell'altra storia, che poi alla fine, insomma, si riuniscono, e quindi diciamo che il dualismo si va poi a ricongiungere sul finale. Quindi A te, a me, e la dedichiamo alle tre fantastiche ragazze che ci salutano. Ok. Buongiorno a te, che ti alzi alle 6 e prepari il caffè. Buongiorno a me, che mi sveglio alle 10 e voglio ancora dormire. Na na na na na na na na na na na. Buongiorno a te, che sei al lavoro ormai da 3 ore costretto, perché ora non puoi più stare da papà. Buongiorno a me, che è già mezzogiorno e faccio colazione, e ora non so se guardare un film o studiare un po'. Na na na na na na na na na na na. Ridi ai clienti ma fai finta se hai la mente in stand-by, ed aspetti con ansia che venga alle 6, ed io invece sono qui, non ho aperto il libro ed era brutto il film, che palle, però chiuso in un ufficio proprio non ci sto. Na na na na. Mazzi e pazzi si son fatte le 6 e ridi, perché ora torni nel mondo che non ride di te. Buonasera a me, steso sul divano tra le pagine mi perdo, che ora è? Via il pigiama e arrivo subito da te. Na na na na na na na na na na na na. Alla tua giornata che ti fa star bene, perché dalle 6 tutti i tuoi problemi cancellare sai. Buonanotte a me, alla mia giornata che mi fa star bene, perché dalle 6 tutti i miei problemi cancellare sai. Ed ecco qua, quello che è il tiradisco, lo chiamiamo noi, no? Della serie. La traccia numero 3 è quella che Igor avrebbe scelto per trainare l'intero CD A te o a me, mentre a noi lascia la scelta di trovare qualche altro pezzo all'interno di questo disco. Ma vediamo di comprendere meglio come è nato a te e a me, questo, questo brano ho regalato. Ma la storia è una storia di due persone che fanno due cose diametralmente opposte. C'è uno che si deve alzare alle 6 per un po' sbarcare il lunario, deve andare a lavorare, e l'altro che rimane a casa, che può essere una persona che insomma è in attesa di lavoro, uno studente, che un po' alla fine si annoia. E sono due situazioni che ho vissuto entrambe, quindi ho parlato di due mie esperienze di vita vissute in due momenti diversi della mia vita, ma che ho passato entrambe. E alla fine però, insomma, come dice la frase finale, diventa quasi una canzone d'amore, perché dice: dalle 6 tutti i tuoi problemi cancellare sai, dalle 6 tutti i miei problemi cancellare sai, no? È un po' l'alter rigor, quindi il dualismo che in questa canzone si concretizza, per poi, insomma, come dicevo prima, arrivare a comprendersi, no? Con se stessi, col proprio alter ego. E poi però, da quello che anche vedo come riscontro, dalle email, insomma, da quello che ci dicono, è anche una canzone in cui si riconoscono molte persone. Molte radio dicono una cosa di alzarsi alle 6 del mattino per andare a lavorare prendendo il caffè, si riconoscono molti. Quindi è anche un po' uno spaccato di vita quotidiana, di chi va tutti i giorni in ufficio, chi rimane a casa, insomma, un pochettino si annoia e non sa cosa fare, perché insomma ci sono anche di quelle situazioni. Oppure sta a casa perché non ha voglia di fare niente, non so, capita anche questo. Oppure perché ha vinto il Superenalotto, può succedere anche questo, magari spero più raro. Spero di non vincere mai il Superenalotto, io so. Non ti preoccupare, se tu vinci... ci pensano, no, gli amici. Sarebbe terribile, no? Anzi, dicelo, chiamaci eventualmente. Esatto. Ecco, vorremmo capire questo, Igor. Adesso stiamo piacevolmente conversando e sentendo la musica così in studio, siamo in pochi, potenzialmente siamo in molti di più, ma l'impatto con i tuoi concerti live, tu prima dicevi che si poteva anche fare una specie di reading all'interno dei tuoi concerti, c'è spazio per questo? Cos'è reading? Reading, ovvero leggere qualcosa, oppure dedicare tipo delle poesie per poi senso? Passare, sì. Beh, non così sperimentale, non, insomma, no, a questo punto no. Cioè, la teatralità intendevo nel modo di cantare, in alcune melodie che invece di essere cantate in una maniera canonica sono un pochettino più strecciate, un po' più teatrali, un po' più parlate, ecco. Arrivare al reading mi sembra una cosa sessuale, sto reading, facciamo del reading. No. No, direi di no, sì. Sul palco non, ma oddio, boh, è un'idea, vediamo, non... può essere. Ma guarda, abbiamo una canzone, si chiama Il TG delle buone notizie, che un po' di reading lo presuppone, si presta strutturalmente, no, ce n'è bisogno, perché... certo. Apriamo questo, no, non vorrei, fate Bobby, cioè, no, lascio voi, mi avete passato la palla, l'assist, allora no, l'ho messa in rete. A me è piaciuta moltissimo il finale che avete fatto, il pezzo che avete appena suonato, c'è molto da band in che on the road, il finale col piano, sì. Molto molto americano, nel senso positivo, secondo me, divertente, accattivante, che fa muovere la gente, questo è importante, la vedo così io. A me piace muovere e anche smuovere un po'. Anche smuovere, giusto, giusto. Anche di più, ecco. Se si riesce a dare energia e anche risvegliare un po' delle sensazioni, penso che sia, insomma, la cosa primaria, ecco, della musica. Posso chiedere una cosa? Questi 13 pezzi, tu hai detto che ce n'è uno scritto 10 anni fa, sono tutti nuovi oppure altri vecchi? No, a parte quello, gli altri sono nuovi. Ho capito. Sono scritti negli ultimi... beh sì, gli ultimi 3 anni comunque. Alter rigor... è un lavoro iniziato 3 anni fa, quindi insomma... Con fatica, c'è scritto nella tua intervista. Beh, sì, è un parto di 3 anni, quindi neanche le donne possono capire che di solito, ah, oh, non sai cos'è il parto, non puoi 9 mesi, e pensa 3 anni. 3 anni. E quindi sì, è difficile, però è fantastico, eccezionale, quindi è una sensazione. Sono 13 figli poi, perché... chi mi chiede di scegliere un pezzo piuttosto che un altro, faccio fatica, perché per un motivo o per l'altro... Con gli alimenti giusto, esatto, giusto. Sì. Siamo sempre disponibili anche per il cabaret. Non c'è problema. Quindi sì. Hai detto 13 figli. Praticamente vorrei arrivare al discorso dell'etichetta tua, che è molto importante. Come sei arrivato ad avere l'idea? Tu hai detto prima per avere libertà, ma difficoltà è portare avanti un'etichetta. La dura. È dura. Ma io, come c'è scritto nella mia biografia, sei la tua biografia, sì. Mia biografia, sì, perché è la mia, e sono riuscito, dopo svariati lavori, anche se ho iniziato a organizzare eventi quando avevo 20 anni, ad avere una mia agenzia di spettacolo con cui organizzo eventi con i comici di Zelig e di Colorado Café. Quindi diciamo che l'agenzia Bar Etichetta mi permette a livello diciamo economico anche di poter vivere senza lavorare, che credo che sia una cosa fantastica, facendo solo quello che mi piace, anche se costa sacrificio, rinunce e insomma una serie di problematiche con se stesso, perché insomma è dura fare musica, riuscire a esprimersi, riuscire a conviverci, l'attesa, vorresti raggiungere i risultati, ci vuole pazienza, la gavetta non finisce mai, insomma è veramente dura, però è quello che adoro fare, quindi va bene così. E quindi ho aperto l'etichetta barra agenzia, e che mi ha permesso insomma di vivere comunque in un ambiente legato allo spettacolo e alla musica. È importante? Beh, sì, è stata una cosa che mi ha dato diciamo la libertà economica, la libertà di esprimermi, la libertà professionale. Sembra facile dirlo così, ma ripeto, costa sacrificio arrivare a insomma a ottenere certi risultati, e va bene così. Insomma, quando poi sei sotto contratto con altre etichette, devi sottostare a certe regole. È vero che hai meno pensieri, hai meno preoccupazioni, devi seguire certi diktat, no? Quindi sei un pochettino più legato a, però hai meno pensieri, meno problemi, meno cose da risolvere. Sono scelte. Io chiuso in un ufficio proprio non ci sto, come dice a te a me, certo. E quindi ne pago le conseguenze, ma sono felice così, insomma. Giusto. Visto, citiamo il tuo sito, che è importante. Sì, è difficilissimo, è alterigor.it. Lo possiamo dire in coro altre 1, 2, 3. Alterigor.it. Ecco. Bene, come il titolo dell'album, distribuito Venus in tutti i negozi di dischi, a un prezzo stracciato, 10 euro. Cioè veramente il deca di una volta. E anche su iTunes sì, certo. Siamo molto scaricati, cioè scaricateci, ma in senso buono, ecco, anche da iTunes. E su Alter Igor c'è, insomma, c'è tutto, i video, le canzoni in streaming, le foto anche di Alex, no, di Giuseppe, bellissime. No, c'è una foto che abbiamo messo che Alex non ha approvato perché non si sente bello come è di solito, con questi occhioni chiari. Vuole approvazione prima di mettere le foto. Sì, ma me l'ha data. No, ho la liberatoria. Non hai firmato nessuna liberatoria. Ma quella sera che eri ubriaco, che ho detto fai un segno qua. Ah, ecco, allora. Che eravamo a Roma. Sono arrivati anche alcuni messaggi che vi riguardano. Non so cosa stava ascoltando Enrico, però dice: in questa canzone si rispecchia molto in me stesso e anche la mia ragazza si rivede. Bravi, originale, sembrava uno specchio. Ecco, questo è uno dei messaggi. Poi ancora bravi. Cos'è? È italiano? Ah, il pezzo che si riguarda. No, perché era scritto anche in inglese. il pezzo che si voleva far sentire prima era Brothers in Arms. Non so se. Brothers in Arms. Brothers in Arms. Dei Dire Straits? Sì. Perché volevamo farlo sentire? Non... No. Era probabilmente qualche aggancio della vostra canzone di prima, che si cercava di capire, ma probabilmente. C'è qualche ecco la B Brothers in Arms, va bene. Sì. C'è qualche ascoltatore che beve naturalmente, per cui no beh, noi tra l'altro adoriamo, io particolarmente Dire Straits, a tutti e due anche bere, quindi Brothers sempre in Arms, Dire Straits con bere, esatto, con la B. Poi c'è una Blu ragazza... Radio Veneto con la B, sì, giusto, c'è una ragazza che si firma Pat con la B, ecco, e condivido la tesi della personalità, sono tanto simpatici e li saluto, bella la prima canzone fatta in acustico, bene, anche questa ci ha ascoltato. E poi ce ne sono degli altri, sono troppo divertenti, metteteli in onda da soli. Questo è il numero uno, chi è? L'ennesimo invito ad andare via, Maurizio, quindi in questo caso. Ma è gente indigena o sì, penso sia locale. Ma Igor già sta facendo il DJ, quindi non c'è nessun problema. Va bene, allora noi si può continuare con un'ultima canzone da disco e magari facciamo un bel finale. Sì, esattamente, dal vivo. Facciamo l'ultima canzone da disco e poi via verso il finale tutti i pezzi che vuoi Igor. Perfetto, ok. Fino a che non ci mandano fuori, no? Quasi. Va bene, allora ascoltiamo un altro pezzo tratto da Alter Igor, è il TG delle buone notizie. buonasera, benvenuti. Sempre più in espansione nel paese gli impianti di produzione di energia rinnovabile. A Taranto, una coppia di 80 anni festeggia oggi 50 anni di matrimonio e sono felici. Milano, una ragazza di 20 anni uscita di casa alle 2 di notte per fare una passeggiata nel quartiere non ha subito violenze. Trovata la cura per la depressione, accendi il cervello, non la televisione. Buonasera, benvenuti al TG delle buone notizie. Non ci sono solo morti, terremoti, rapine e disgrazie. Al 2009 le persone infette da HIV nel mondo sono calate del 17%. Una scolaresca di bambini romani è stata incinta 4 giorni a Torino. Hanno visitato il Museo Egizio, la Sacra Sindone e la Mole Antonelliana e dopo aver mangiato un enorme gelato sono tornati a casa e stanno tutti bene. Trovata la cura per la depressione, accendi il cervello, non la televisione. Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qui all'interno di Blu Radio Sera, Blu Radio Veneto. Ancora buona serata da Flavio e da Maurizio. Abbiamo ascoltato il TG delle buone notizie, ma oltre alla voce di Igor ce n'erano tante altre. E tutte assolutamente con buone notizie. Sì, allora qui ho realizzato un po' un mio sogno d'infanzia. Quello di sentire un TG che dice da esclusivamente buone notizie. Sono un po' stanco di fin da piccolo, dalle 7:30 fino alle 9, di sentire catastrofi, morti, stupri, terremoti, tsunami, che più ne metta. Ho pensato di creare io un TG delle buone notizie. Parto dal presupposto che l'informazione è fondamentale, quindi va data assolutamente, dobbiamo sapere cosa succede nel mondo, per quanto quello che ci dicono che succede nel mondo è un po' strumentalizzato, ci dicono un po' quello che vogliono farci sapere di quello che succede nel mondo. Però insomma, ecco, l'informazione assolutamente ci vuole, però è un'informazione che va esclusivamente in una direzione di negatività. Io penso che la paura un po' dei nostri tempi sia anche figlia di un'informazione che dà solo brutte e cattive notizie e che quindi si potrebbe un po' esorcizzare questa paura che c'è un po' ai giorni nostri di uscire di casa, di fare un viaggio perché terrorismo ovunque, dicendo che succedono anche delle cose belle, positive. E insomma, io l'ho fatto in questo TG delle buone notizie che ha avuto una eco mediatica anche insomma rilevante, quindi... Sì, puoi dire dove? Dai. Beh, tutto è partito da una trasmissione regionale, Pianeta Umbria, che l'ha preso come sigla proprio del proprio TG. E da lì poi sono subentrate anche integrate altre TG che l'hanno preso come jingle, come sigla, fino ad arrivare a Radio 2 Rai con la Federica Gentile che si è interessata alla cosa e ci ha fatto un'intervista su questa cosa, e fino al TG2 che proprio insomma si è un pochettino inaugurato il progetto Alter Igor in toto per quanto riguarda la copertina del Cimboldo, discorso di Anthony De Mello, cui è ispirato il disco, insomma, e soprattutto ti dico delle buone notizie che l'hanno trovato, insomma, geniale per questa volontà di dare buone notizie in un sistema che oggi è sempre più... Guarda, ho visto qualche sera fa il film Live su Sky, e parla di un reality con Eva Mendes. È terrificante, perché proprio questa giornalista inventa questo reality dove ci sono sei persone e che una per una si devono sparare con la rivoltella in diretta, e ci sono cinque pallottole salve, proiettile salve, uno invece, uno vero. E quindi uno, come una roulette russa, uno per volta si sparano in testa, e chi ha la pallottola salve e non muore guadagna 5 milioni di euro, e uno muore lì in diretta. E poi si scopre che, insomma, quello è un po' il futuro, diciamo, della televisione, perché per fare ascolti si ricorre anche a queste cose terrificanti. Ecco, diciamo che mi sento di dire che sono un po' controcorrente, spero di avere l'appoggio di questi... Bravo. Oh, bene. Sono appoggiato, bene. Mi piace, molto appoggiato. Benissimo, allora possiamo continuare con l'ascolto live di altri pezzi. Cosa possiamo far ascoltare ai nostri ascoltatori? Libero, libero da me? Sì. Ah, libero da me è un pezzo a cui tengo molto, perché è proprio un po' la liberazione dell'io animale, quindi è un po' una canzone di sfogo, una canzone in cui si bada poco l'intonazione ma molto a un po' urlare questa voglia di essere liberi, libero da me, quindi l'alter ego anche qua, liberarsi da se stessi, no? Riuscire ad andare al di là di se stessi. Libero da me, e lo dedichiamo a tutti quelli che ci hanno messaggiato, che sono stati così carini. Condividere con noi questa serata, io ci sarei. Io. Oggi ho capito che posso stare senza te. Voglio percorrere il sentiero del cuore senza alcuna stampella emotiva. So che tu non mi capirai, fino a ieri dipendevo da te, ma non ha più senso abbandicarmi agli altri, cercare il consenso tra te e i tuoi istinti. Dopo ci sarò, forse ancora di più, perché libero dalla schiavitù delle ipocrisie. Tu ora e sono disorientato, la mia bussola non sa più dove è il nord. Non è facile vivere senza certezza che quando ho bisogno posso contar su di te. Le tue braccia e mi chiedo per che motivo lo faccio. Masochismo, debolezza, forse poco coraggio. Vorrei star con te ma non sentirmi nostalgico. Dopo ci sarò, forse ancora di più, perché libero dalla schiavitù delle mie paure. Bene, allora un altro bel pezzo dal vivo con Igor e la sua band. Arrivano altri messaggi. Ce n'è uno che dice: che spettacolo questa band, sia perché sono simpatici, sia per le idee musicali e le musiche non banali. Un abbraccio dalla fredda Rubano, quindi qua alle porte di Padova, da Sabri. Ecco qua, benissimo. Dicevo Rubano, no, c'è l'accento spostato. Ma ci sono due paesi qua in provincia di Padova che hanno l'accento spostato e portano a significati diversi. Ad esempio, una è Rubano, che molti chiamano ancora Rubano, e poi un'altra è Limena. Limena. Ah, perfetto. Qualcuno dice Limena. Limena, perfetto. Bene, Maurizio, bravo. Bene. Poi ci è arrivato un altro messaggio: super divertenti, non la smetto di ridere. Inviateli ancora, vi prego. Inviateli dove? Ah, no, qua. No, ci stanno a Manau. Allora, ci sta a Manau, paese tuo. Basta. L'ultima... Però vedi che siamo più forti come comici alla fine. Beh, poi vabbè. Diceva ancora: l'ultima song era super. Anna da Padova. Grazie. Perché avete fatto un po' di feeling di rumore nel senso positivo del termine, sia acusticamente parlando. A Bologna si dice bordello. Bordello. No, ad Asti bordello è un'altra cosa. Insomma, a Bologna bordello è quello. Ed è chiuso. Ah, non è un bordello chiuso. Ah, oddio, non. No. È una parola omografa, bordello. Le parole omografe sono quelle che si scrivono nello stesso modo, ma hanno significati e accezioni diverse. Non so, per esempio. Bravo. Applauso. Bravo. Allora, che ne so, palla per esempio è la palla da tennis, ma uno, cioè, perché palla? Parioli. Parioli è anche una palla, per dire una bugia, o certo. Che ne so, servizio. Batteria è una parola pazzesca, perché c'è la batteria, quella dove si suona, la batteria quella del telefono, batteria, sì, di pentole, non so, la batteria nell'atletica, c'è la batteria, la prima batteria, la seconda batteria. Poi si usa dire è una batteria, perché poi non vale niente. Esatto, cioè situazioni. Vedi, sono parole omografe. Stasera abbiamo imparato una cosa. Siamo bene, allora appuntamento a martedì prossimo con altre citazioni. No, vabbè, ci farebbe piacere invece averti anche domani sera, però magari hai un altro impegno. Vediamo. No, ma torniamo prestissimo, perché bene, perfetto. Siamo stati veramente bene, sì. E va tutto bene, insomma. Ecco, adesso non leggere più. Bene, ascolta, allora Igor, noi ci dobbiamo salutare perché è arrivato il collega del Rock Wave, heavy metal, hard rock, anzi si vuoi ascoltare fino a mezzanotte. Vi fa rizzare i capelli con il suo tipo di musica. Quindi noi allora potremo anche salutare Igor e la sua band, che ci faranno ascoltare in uscita proprio un'ultima canzone. Va tutto bene, è un pezzo positivo, proprio è la chiusura anche dell'album. Direi che è perfetto per la chiusa, ecco. Benissimo, allora grazie Igor, da parte grazie di Flavio e Maurizio è tutto. L'ultimo appuntamento per domani sera, Maurizio? Abbiamo gli Utah, che è un gruppo italo-canadese, verranno a presentare un disco che è uscito da poco tempo. Sono quattro di toscani, mi pare, e la ragazza è canadese. È musica molto vicina a certe tematiche tipo Coldplay, però interessante. Da portare sull'isola deserta. Da portare come il disco di Igor, chiaramente. Faccio l'ultima battutaccia, dai, ci dici. Coldplay, perché hanno un po' freddo, forse. Sì, Coldplay, giusto. Coldplay. Devo andare per la musica. Fantastico. Va bene, noi dobbiamo andare, vi lasciamo da soli con Igor, buona fortuna. No, da soli. Anche gli altri. Bene, ciao. Va tutto bene. Ve la dedichiamo in chiusura. Va tutto bene. Ciao, come stai? Se ci sei, batti un colpo. Ehi, sono qui per te e ti ascolto. Sai, è da un po' che a te io ci penso. Sì, e lo so, ma ora dai, dimmi tu. Sono più sereno ed affronto ogni cosa come se osservassi dal di fuori un'altra persona. Va tutto bene, vivo ogni giorno in più. Va tutto bene, ora la vita mi dà del tu. Nuoto nel vento e sui rami ballo, nella corrente del fiume corro. Va tutto bene, ehi, caro me, dove sei? Sei andato? No, sono qui, vedo che hai capito, ma forse sì, anche se ogni tanto non è facile interrompere questo pianto. Va tutto bene, lascio alle spalle ciò che non va. Va tutto bene, non vivo più solo a metà. Nuovi orizzonti davanti a me, se vado incontro a quel che c'è. Va tutto bene, nel vento e sui rami ballo, nella corrente del fiume corro. Va tutto bene, ciao, ora dai, dormi un po', che sei stanco, sì, ma stai qui, qui con me, al mio fianco. Rockway, l'onda del rock.